1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, le 7:20 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Oggi con Oscar Giannino avremo ospite il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, dalle 8:40, e parleremo ovviamente dei vari temi che sono sui giornali con voi, temi davvero diversi, giornali molto ricchi, allora andiamo a leggerli, Ah, prima intanto faccio questa comunicazione. Domani venite tutti allo Zelig di Milano, che con Leonardo Manera torna a Platone. Ci sarò anch'io domani sera, giovedì. Vi aspetto, razza di debosciati. Se volete venire a vedere lo Zelig, dai, che ci si diverte un po'. Domani sera, giovedì 22 ottobre alle ore 21. Intanto, allora, i giornali. I titoli sono dedicati alcuni alla stabilità, tasse, i conti della manovra, ecco chi guadagna e chi no, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, mentre per Repubblica il dietro fronte di Renzi sulle case di lusso pagheranno l'IMU, così anche la stampa resta la tassa sulle case di lusso, mentre l'Unità titola e le tasse vanno giù. C'è invece chi si dedica, come il Corriere della Sera, alla legge Severino. Sì alla Severino, rischi per De Luca e De Magistris. Mentre il Messaggero, Marino resiste, Renzi volta pagina, la resistenza forse del sindaco Marino, che potrebbe ripensare alle dimissioni annunciate. Risale Marino è anche il titolo del Manifesto. Mentre la vicenda di cronaca di Vaprio Dad è l'apertura per il giornale Lo Stato sta con i ladri e Libero vietato difendersi dai banditi. Però voglio partire da quello che certamente è uno scoop, è dato come esclusivo. È vero che è stato smentito nella notte dal portavoce Vaticano, ma è il titolo del quotidiano nazionale, io ho l'edizione del Nord, Il Giorno, e il titolo è questo: Papa Francesco è malato. È uno scoop che certamente, se confermato, farà il giro del mondo. Il titolo del Giorno: scoperta mesi fa una macchia scura al cervello, il piccolo tumore è curabile. E c'è un luminare giapponese che segue il Papa e dice non servirebbe l'intervento chirurgico. A pagina 2-3 Tommaso Strambi e Francesco De Victoris raccontano come è filtrata questa notizia. Non dovrebbe essere necessario alcun tipo di intervento chirurgico. L'infermiera è sollevata. Quando legge il nome del paziente quasi non ci vuole credere. E oggi che gli esami avrebbero evidenziato che quella macchia è un piccolo tumore al cervello, ma si può curare senza portare il paziente in sala operatoria, è entrata nella piccola cappella della casa di cura San Rossore ad accendere un cero alla Madonna. Sono anni che non lo facevo più, confida. Quel paziente non è un suo familiare, neanche un conoscente. Il suo nome è Jorge Maria Bergoglio, Mario Bergoglio. Sì, proprio lui, il Papa venuto dall'altro mondo. Tutto è nato qualche mese fa, una mattina come tante, quando all'improvviso nel cielo sopra Barbaricina, alle porte di Pisa, sbuca un elicottero e chi lo vide racconta di aver notato le insegne giallo-bianche sulla fiancata mentre volava radente sopra le ville della zona. E tutti a pensare c'è il Papa San Rossore. In fondo, come fa le telefonate a sorpresa, poteva anche essere arrivato per visitare la piazza del Duomo, la Torre Pendente. Ma perché non usare l'aeroporto militare? E poi spunta, secondo altre testimonianze, il professor Takanori Fukushima e alcuni operatori della sua equipe. Questo ulteriormente alimenta i misteri legati all'arrivo dell'elicottero, perché il professor Fukushima è conosciuto a livello mondiale per la ricerca e il trattamento dei tumori al cervello, aneurismi, neuralgie trigeminali. Perché dunque l'elicottero? Nella casa di cura le bocche sono rigorosamente cucite in rispetto alla policy aziendale. Ma quel che è certo è che l'elicottero, dopo aver prelevato l'equipe del professor Fukushima, riparte alla volta di Roma per atterrare oltre le mura leonine. Da qui nasce lo scoop, secondo il quotidiano nazionale, smentito dal Vaticano, che dice non c'è nessuna notizia sulla salute del Papa, e sono notizie irresponsabili quelle che sono filtrate. Questa è la posizione del Vaticano, mentre il direttore del quotidiano nazionale, Andrea Cangini, dice la notizia è sicuramente fondata. Comunque, certamente la notizia del giorno, se non altro, è lo scoop che c'è sul quotidiano nazionale: Papa Francesco è malato. Mentre invece l'Italia si è divisa, come succede in questi casi, anche con episodi da talk show con politici che urla, spara tu, sparati in testa, spara di qui, spara di là, sull'episodio di Vaprio Dadda, la vicenda che ha coinvolto Francesco Sicignano, un pensionato che ha sparato perché ha trovato un ladro che si era intrufolato in casa sua e lo ha ucciso. Ieri c'è stata una fiaccolata da parte di alcune forze politiche, di alcuni cittadini, immagino a sostegno di questo pensionato che è apparso sul balcone e ha fatto solo un sorriso, nessuna dichiarazione, anche se raccontano tutti i giornali, lo fa per esempio a pagina 10 La Stampa, ha passato la notte a piangere nel verbale dei carabinieri, a dire io non volevo ucciderlo. Gianni Santucci racconta invece sul Corriere della Sera il corpo sulle scale esterne e la torcia in mano alla vittima, tutti punti da chiarire. Lui dice non volevo che morisse, ma c'è questo motivo per cui è stata fatta l'imputazione di omicidio volontario nei confronti di questa persona, perché il cadavere è stato trovato del rapinatore sulle scale esterne della villa. E scrive anche Repubblica: come mai, se ha sparato in casa, non ci sono tracce di sangue della persona uccisa in casa? Insomma, il rischio è che si trasformi in un'imputazione più grave, come dire, non era legittima difesa ma stava fuggendo, per esempio, questa è una delle ricostruzioni, il rapinatore, ed è stato ucciso sulle scale. In ogni caso ci si confronta su questo. Il Secolo XIX va a intervistare Graziano Stacchio, è il benzinaio divenuto suo malgrado famoso per aver sventato una rapina in una vicina gioielleria uccidendo uno dei banditi. Intervistato da Isabella Villa dice: no, non è giusto, una persona, soprattutto una persona anziana, non deve vedere violata la sua intimità da un ladro, dice Stacchio, soprattutto non deve essere costretta a difendersi perché non c'è nessuno che lo fa per lui. Quelle immagini, racconta Stacchio, non mi abbandonano mai. Quando si verificano episodi come quello di Vaprio Dadda, il dolore si ripresenta, così come l'angoscia e il tormento. Quando ho sparato non avevo certo la volontà di uccidere, non ce l'avevo. Ma se lo Stato non c'è, il cittadino deve avere la possibilità di difendersi. Io pensavo a una povera ragazza in mano ai banditi e sono entrato in azione. Così Graziano Stacchio. Certo, poi bisognerà vedere, è inutile parlare molto, bisogna che poi ci sia il corso della giustizia. Mi ha colpito invece questa storia che vi racconto dal Corriere della Sera. È la storia di un parrucchiere di Napoli, è il parrucchiere sotto scorta che ha denunciato i boss e ora dice fate come me, conviene, anche se Giovanni Bianconi racconta a pagina 27 del Corriere della Sera, una bella storia, che la vita di questo parrucchiere Salvatore Castelluccio, 44 anni, che ha un negozio tra Forcella e i quartieri spagnoli, da quel momento è totalmente blindata, vive con la scorta. E racconta, si sono presentati un giorno qui in cinque, a bordo di tre scooter. Sabato ci devi portare 2000 euro, gli ha detto uno, mentre un altro lo fissava da lontano. Era Raffaele Lelluccio Trongone, il boss della zona. Non ce li ho, risponde Salvatore. Questo è un problema tuo. Trova i soldi, fu la replica. Da quel momento scatta la voglia di denunciare. Lo fa questo coraggioso parrucchiere, denuncia e sfida la camorra. A quel punto, quando tornano per incassare i soldi, ci sono dei poliziotti, finti clienti, che arrestano le persone colte in flagranza di reato che stavano per riscuotere il pizzo. Salvatore dice: la sfida è alla camorra, qui pagano tutti, io non ne potevo più. Ho la dignità, si vive una volta sola e alla dignità non rinuncio. Andarmene avrebbe significato ricominciare da capo il calvario, mentre invece ho deciso di combattere. Beh, davvero complimenti. Certo, il rischio poi in questi casi è che le persone dopo un momento di entusiasmo vengano abbandonate dallo Stato, dalle istituzioni, cosa che non deve assolutamente capitare per questo parrucchiere come per tutti coloro che stanno dalla parte della legalità. E a proposito di legalità, io non ho molte parole per commentare, le potrete usare voi le parole magari nelle vostre macchine o nelle vostre case, sui vostri treni. Certamente questo è l'articolo che mi fa pensare della giornata, forse anche della settimana, l'articolo proprio da Mani sul Volante, perché riguarda il giudice antimafia Silvana Saguto, che è già indagata da un po' di tempo per avere gestito, secondo l'accusa, con raccomandazioni e favori il patrimonio sequestrato ai boss, cioè colei che doveva gestire il patrimonio confiscato ai boss e secondo le accuse di un'inchiesta lo faceva in maniera non legale. E allora sono spuntate le intercettazioni ambientali di quando si è chiusa in macchina una volta, dopo aver partecipato alla manifestazione Le Vele della Legalità, dopo aver abbracciato Manfredi Borsellino, figlio di Paolo Borsellino, dopo aver speso parole straordinarie nei confronti del magistrato Paolo Borsellino. Poi che fa Silvana Saguto? Si chiude in macchina e si lascia andare a questi insulti ai figli di Borsellino. Manfredi che si commuove, ma perché minchia ti commuovi a 43 anni per un padre che ti è morto 23 anni fa? Ma che figura fai? Ma dov'è uno? Ma le palle ci vogliono! Parlava di sua sorella e si commuoveva, ma vaffanculo! Questo il giudice Silvana Saguto. Poi ancora, di Manfredi Borsellino, è uno squilibrato, lo è stato sempre, pure da piccolo, e la sorella Lucia Borsellino una cretina precisa. Parole shock del magistrato antimafia, gli insulti ai figli di Borsellino. Lui squilibrato, lei cretina. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Milan, l'impresentabile della radio. Cacciatelo, cacciatelo! Ma chi, io? Io? Ah, va bene, va bene. Caccia, che fai, mi cacci? Chi è che l'aveva detto Fini a Berlusconi? Che fai, mi cacci? Allora, tra poco ricordatevela questa frase. Che fai, mi cacci? Perché ritorna oggi sui giornali, a proposito di Ignazio Marino. Ma prima la legge di stabilità. C'è stato un dietrofront comunicato dal Presidente del Consiglio via Facebook, e cioè le tasse sulla prima casa non vengono tolte a tutte le prime case. Sapete che c'è la polemica, le ville, i castelli. Ecco allora che il governo ci ripensa. Pagheranno comunque la tassa sulla prima casa le case nella categoria catastale A1, A8 e A9, cioè le abitazioni di tipo signorile, ville con grandi parchi a uso esclusivo e castelli. Sono in tutto 75.000. Continueranno a pagare l'IMU con un'aliquota compresa tra il 2 e il 6 per mille, a decidere è il sindaco delle città, e produrranno un gettito di 85 milioni di euro. Tra l'altro racconta il Corriere della Sera che è una decisione che Renzi sembra aver preso e deciso in perfetta solitudine, senza troppi consultazioni. Da Palazzo Chigi parlano solo di scelta tecnica, però così disinnesca una delle polemiche Renzi a dire... è così agevole anche i ricchi. Le ville tornano a pagare l'IMU, o meglio, continueranno a pagare l'IMU. Detto questo, Goffredo De Marchis su Repubblica racconta di un Renzi che per il resto non è disponibile a nessun tipo di negoziazione. Non ho alcuna volontà negoziale. Se lo scordino, dice il segretario del PD ai suoi collaboratori, riferendosi alla pattuglia ribelle, così viene definita la minoranza del PD, difendo a spada tratta l'impianto complessivo della manovra. E dunque nessuna negoziazione. Questo vuol dire, come si profila da giorni a dire, che nel caso di opposizione si mette la fiducia? Questo staremo a vedere. Certo, è un Renzi combattivo nei confronti della minoranza del PD. Mentre viene intervistato dal Corriere della Sera, da Federico Fubini, Joram Gutgeld, che è il commissario ennesimo della Spending Review. deve rispondere soprattutto all'accusa, come dire, di aver annunciato tagli per 10 miliardi e poi ne ha fatti 5,8 lui come commissario. Che è successo allora? Guttgeld: quando parlavamo di 10 miliardi, risponde lui, prevedevamo un intervento su sgravi e agevolazioni fiscali che poi abbiamo deciso di non fare per due motivi. Ci siamo resi conto che per ottenere i nostri obiettivi di riduzione di tasse e deficit non era necessario, grazie al maggior recupero di evasione fiscale e alla crescita in più. E poi avremmo dato l'impressione che questa non è una manovra di taglio delle tasse, ma solo di spostamento della pressione da una parte all'altra. Al che il Corriere chiede scusi, non dirà che i tagli agli sgravi dovevano coprire i 4,2 miliardi che mancano? Cos'altro è saltato? Noi fra il 2015 e il 2016 facciamo già una manovra sulla spesa da 20 miliardi. Se si prende la macchina pubblica, lì la spesa scende in modo continuo, dal 18,4 al 18% del PIL nel 2015 e poi al 17,7% nel 2016. Ora lavoriamo ad altri interventi, costi standard per comuni, centralizzazione degli acquisti. Stiamo lavorando su meccanismi veri di efficienza e produttività che daranno altri frutti. Dunque continua la spending review, si difende così Guttgeld all'accusa di non avere tagliato 10 miliardi. Altra notizia, la legge di stabilità è quella del canone RAI, la notizia più interessante, ormai si è capito come si pagherà, e cioè 6 rate da 16,60 euro a rata bimestrale. Ma la notizia più interessante la dà Andrea Bassi a pagina 11 del Messaggero. Attenzione, udite udite, a cominciare da Salvini che ci ha detto due giorni fa che non paga il canone. Canone RAI: diventerà reato mentire sul possesso della TV. Aperto il varco, la gara ad infilarsi è cominciata. E cioè, fino a 2 anni per le certificazioni false. E tra l'altro le società delle, che riscuotono la bolletta, segnaleranno al fisco i morosi. Certo, ci sono tanti nodi aperti, ma diventerà reato mentire sul possesso della TV. Questo è il titolo di prima pagina del Messaggero. Certo, non fa molto piacere vedere che a fianco il Messaggero racconta questa storia legata alla RAI, visto che c'è la trasparenza, ieri ne parlavamo con Oscar Giannino, dov'è la trasparenza dei compensi di una TV pubblica? Eccolo qui, RAI, restano segreti i compensi delle star. Pagina 13 del Messaggero, Mario Aiello racconta che oggi ci sarà l'ok della Camera alla riforma della TV pubblica. E verranno messi online solamente gli stipendi sopra i 200.000 euro di manager e giornalisti. Sopra i 200.000 euro di manager e giornalisti. Ma non ci saranno le star, come dire, i presentatori, gli ospiti, quelli lì invece non verranno resi noti. C'è la privacy. E allora se c'è la privacy... Va bene, c'è la privacy. Mentre invece voglio saltare dalla parte della cronaca per raccontare di Marino. Ignazio Marino resiste, il marziano resiste. Ha fatto una conferenza stampa, io l'ho detto pubblicamente, ma vorrei solo per vedere l'effetto che fa che Marino inizi una resistenza, la resistenza mariniana, un barricadero, si barrica all'interno del Campidoglio. Marino ha fatto ieri una conferenza stampa a dire forse non mi dimetto. Solamente 3 domande ha accettato, una delle quali era sulle dimissioni, e lui ha risposto: come sapete ho 20 giorni di tempo per le dimissioni. Il retroscena più interessante è quello di Giovanna Vitale, pagina 12 di Repubblica. A me l'unica cosa che interessa, dice Marino ai suoi, è ristabilire la verità. Voglio che tutti, a partire dal PD, riconoscano il principio per cui se vado a casa non lo faccio per una squallida storia di scontrini, ma perché non ci sono più le condizioni politiche per andare avanti. E se il prezzo da pagare è ritirare le dimissioni e andare alla conta, ebbene, sono pronto a correrlo. Mi sfiducino se ne sono capaci. Insomma, Marino vorrebbe, secondo alcuni, ritirare le dimissioni presentate a 20 giorni di tempo da quando l'ha fatto, quindi credo che scada a inizio novembre, e allora c'è già la minaccia da parte del PD e noi ritiriamo tutti i consiglieri. Chissà se Marino vuole andare a questa conta. Eccolo il che fai mi cacci, che ritorna sul titolo del Fatto Quotidiano, il colpo di coda del marziano, la sfida a Renzi, PD, mi cacci? Ah, io spero che sia così, cioè non spero che lo cacci, nel senso spero che vada così, così per vedere un po' di battaglia politica, un po' di polemica, per vedere l'effetto che fa, per l'appunto. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, non ho capito bene l'accostamento con mi cacci Mauro Meazza, però... No, che mi cacci Mauro Meazza? Ma così lo chiedevo per sapere... Ah no, prima un ascoltatore ha detto cacciatelo a me... Sì, ho sentito... Ma magari l'ascoltatore è solo lungimirante, chi lo sa? Ha detto che sei impresentabile, quindi... Quindi mi hai accomunato, insomma, in questa... Sentiti, io ho delle cose importanti da dirti, perché oggi su Sole 24 Ore entriamo nel dettaglio della manovra, non solo perché c'è una guida alla manovra dedicata espressamente a pensioni, alle novità per le pensioni e per la sanità, e ti consiglierei di leggere, anche se tu, Beato, te sei giovane, sei molto lontano da questioni previdenziali. Ma proprio nelle primissime pagine il calcolo, diciamo, degli impatti che possono esserci per le imprese, per le famiglie, per i professionisti, e con una rassegna appunto delle novità passo per passo. Tutto pagina 2, 3 del Sole 24 Ore, due pagine che non sono di norme tributi, ma ugualmente tu dovrai leggere religiosamente, con religiosa attenzione. Oh, poi ti voglio parlare di Facebook. Sì. Perché ti ricordi che la Corte di Giustizia ha detto che sul ricorso di cittadino austriaco non va bene questo trasferimento dei dati, eccetera, eccetera? Ecco, e adesso ci sono gli effetti, perché in Irlanda, lo trovi nelle pagine di Finanze e Mercati, in Irlanda è ripartita allora una inchiesta per capire che ci fa Facebook con i nostri dati. Ma se leggi le pagine di Finanza, che tu devi leggere doviziosamente, va bene, scoprirai anche questo, perché c'è molto altro. Naturalmente parliamo ancora delle Poste, ma parliamo ancora delle Ferrari. Senti, non ho fatto tempo a prenotare niente, anche perché i 2 eurini non me li hai mica dati. No, esatto, avevo 2 centesimi ieri in tasca. Però lì ci vogliono più di $50, insomma, almeno cacciami 2 eurini. Sono la colletta. Non posso mica comprare con le cambiali l'azione, già abbiamo dovuto rinunciare alla macchina. Dai, vabbè. Un pagherò. Sì, vabbè, lasciamo stare, va. Poi ti voglio dire, ci sono un po' di richieste di modifiche per il bail-in, cioè il piano di salvataggio, le regole di salvataggio delle banche che scattano dal 2016, ma su cui le banche italiane hanno qualche perplessità. Se leggi Ferrando oggi nelle pagine di Finanza e Mercati, che tu leggerai, dimmi bene in che modo... Dignitosamente, lasciamo stare, sì. No, che devo fare con te, va bene, troverai anche questa notizia. Oh, poi ti voglio dire, domani, sì, per favore mettiti la cravatta, sì, va bene, perché da domani scattano le nuove regole sui reati tributari, quindi la circostanza merita di essere celebrata e chiarita. Diamo tutta la spiegazione sulle pagine oggi di Norme e Tributi. Mi sembra così di averti già dato un po' di informazioni. Tu so che hai già parlato dell'IMU e delle ville, sì, e dei castelli. Sì, esatto. Tu hai ville e castelli, perché ti vedo affezionato alla questione. No, plurale no, villa e castello sì. Villa e castello, va bene. Ti voglio dire però, se leggi Gianni Trovati oggi sul Sole, nelle prime pagine, scoprirai che lì più che la... questione delle ville dei castelli è che rispunta la supertasi, che tu manco sapevi che c'era, caro Alessandro, e io sinceramente me l'ero quasi dimenticata. Eppure c'è, per gli immobili diversi dalla prima casa, un'aggiuntina che rispunta. Di qui, metto di là. No, è poca cosa, però poca c'è. Cosa. Però c'è. Leggi Gianni Trovati. Va bene. E io a questo punto mi taccio. Traffico! Alessandro Milan, il molleggiato dell'informazione. E vabbè, alle 7:50 minuti, che dire, cosa devo leggere in questi pochi minuti? Beh, intanto la vicenda della legge Severino, con la Corte Costituzionale che ha dichiarato legittima la legge e quindi ha respinto il ricorso di De Magistris, giudicandolo infondato, e per questo De Magistris, che era stato sospeso dal prefetto di Napoli a causa di una condanna in primo grado, poi rimesso con il procedimento riportato alla Corte Costituzionale da parte del TAR della Campania, il Tribunale Civile che aveva sospeso la sospensione del sindaco consentendogli di rimanere a capo della città, insomma un gran casotto, sta di fatto che ora De Magistris rischia nuovamente. Però nel frattempo credo oggi stesso c'è il processo d'appello che potrebbe finire o con una condanna o con l'assoluzione o addirittura potrebbe finire tutto in prescrizione. Insomma, la vicenda è complicata dal punto di vista tecnico. De Magistris è in bilico, la Consulta respinge il suo ricorso sulla legge Severino. Questo è il titolo di Repubblica, del Corriere. C'è anche la vicenda De Luca che è intrecciata, anche se De Luca dice indecoroso paragonare le due vicende. Sono questioni, ripeto, molto tecniche che se volete leggere trovate tutte sui giornali. A proposito di sindaci, torna sul Quotidiano Nazionale il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a lanciare quella proposta che aveva fatto molto scalpore quando ha detto vendiamo i quadri, vendiamo il Klimt e risaniamo così i conti di Venezia. Venezia affonda nei debiti, Brugnaro dice stimo Renzi, ci aiuti. Il sindaco imprenditore che dice a Davide Nitrosi sul Quotidiano Nazionale, ma lo sa che io da 15 anni ho in ufficio una copia di quel Klimt che abbiamo proposto di vendere. È uno dei quadri più belli di Venezia, ma molta gente non sapeva neppure che fosse qui. L'idea di venderlo è finalizzata alla ristrutturazione del debito del comune. Il buco nel debito del comune quando sono arrivato era 72 milioni di sforamento dal patto di stabilità. A settembre abbiamo scoperto di essere fuori di altri 20, dunque fa 92. Negli ultimi 10 anni sono stati tolti alla città 140 milioni di euro, i conti della legge speciale. Venezia, insomma, fa fatica, cadono gli intonaci, barbacani, masegni. L'altro giorno un intonaco ha sfiorato una gondola. Chiamiamo i vigili del fuoco, mettiamo in sicurezza, ma non abbiamo più soldi. Per il prossimo anno solo 200.000 euro per la manutenzione ordinaria. E tra l'altro lo stesso sindaco dice io ho rinunciato allo stipendio, 7.000 euro. In realtà, visto che siamo fuori dal patto di stabilità, è ridotto a 5.000, non l'ho mai visto, ho rinunciato, ho detto lasciatelo qui in comune, mettetelo in un fondo per aumentare i soldi. D'altronde Brugnaro è un imprenditore, se lo può anche permettere, ma certamente il gesto è meritevole di essere sottolineato, cioè regala lo stipendio da sindaco al comune di Venezia. A proposito di comuni, beh, c'è questa. I comuni altoatesini, proprietari di cani, udite. Il fisco ci lega al guinzaglio, arriva pure la tassa sui cani. Alessia Pedrielli racconta che in alcuni comuni dell'Alto Adige, nei comuni della provincia autonoma di Bolzano, stanno pensando per gestire la manutenzione delle aree canine e i sacchetti con la cacca dei cani, di mettere una tassa in più ai possessori di cani. Gli animalisti dicono una follia, i cittadini che hanno cani dicono è una follia, i promotori dicono chi tiene un animale deve pagare. Eccola qui, la tassa sui cani arriva, forse nei comuni dell'Alto Adige. I cani sporcano e i proprietari devono pagare una tassa. Questo è il principio su cui si dibatte in Alto Adige. Va bene, faccio vedere il titolo della Gazzetta. Sono pazzi questi romani. Perdevano 2-0, poi vinciamo 4-2, 4-4 col Bayer Leverkusen. Una cosa pazzesca. Ora rischiano di uscire, insomma, dalla Champions League. Davvero questa vittoria ci voleva per la Roma e invece non è arrivata. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, anche il pesto ci tolgono, perfino il pesto, ascoltatori. Arturo Zampaglione racconta su Repubblica che gli alberi sono a rischio e questo ci dispiace enormemente. E quindi l'invito è questo, fate il pesto senza pinoli, anche il pesto ci tolgono, perfino il pesto. Ma chi se ne frega!